Nei tuoi occhi c'è qualcosa che non ho conosciuto mai, e si nasconde silenziosa dentro te, come il sole al tramonto. Ma il cristallo sai che è fragile, come i tuoi occhi che si distruggono dal pianto ed approfitto per guardare nel profondo dentro a chi ha vissuto una vita senza me. Mi spingo oltre il limite e guardo l'orizzonte, dei rimorsi non dobbiamo far tesoro. E mi spingo oltre l'argine di una vita un po' confusa, come un ubriaco alla fine di una stupida serata. Non ho più tempo per comprare nuove scarpe, a piedi nudi si può arrivare lontano, sentendo il mondo scivolare piano piano, come fosse il tuo gioco preferito che ti scivola di mano. Chiedo se altro tempo forse poi ci sarà dato, agli errori ci sarà sempre un rimedio, ma chi pensa di cambiare agli altri il modo di pensare vuol dire che non vuole rimediare. Tutti sapremmo capire i gesti che si fanno. Basati, dimostra una vile debolezza e non la forza maturata in tanti anni, che tanti scambiano con semplice tristezza. Mi spingo oltre il limite e guardo l'orizzonte, dei rimorsi non dobbiamo far tesoro. E mi spingo oltre l'argine di una vita un po' confusa, un ubriaco alla fine di una stupida serata.